Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora utenze a secco dopo la rottura della conduttura in centro a Trieste, slitta al tardo pomeriggio la previsione di ripristino. Sala del Consiglio di Palazzo Daronco off limits per le carrozzine. A Udine la prima seduta d'assemblea si trasferisce in sala Iace. A Trieste un androide per testare dolore ed efficacia delle cure. Riccardi, garantire condizioni migliori al personale sanitario. Infortunio sul lavoro a Pordenone non denunciato dal medico a gettone, interrogazione di Sinistra Italiana al ministro Schillaci. Un'audioguida realizzata dai ragazzi per raccontare i luoghi della memoria di Pordenone, iniziativa dell'ANED, associazione ex deportati. Retrocessa in A2 la pallacanestro Trieste, prossimo anno con Udine o Cividale o entrambe le friulane vanno al derby playoff. Calcio, sciopero bianco-nero in curva nord, protesta al Friuli dei supporter dell'Udinese che oggi affronta la Sampdoria. 12:31, buongiorno dalla Razzani e Rita Micoli. Slitta al tardo pomeriggio la previsione di ripristino dell'erogazione di acqua per le utenze che ne sono rimaste prive in seguito alla rottura di una grossa conduttura che ieri pomeriggio ha provocato anche un allagamento a Trieste nella zona di via Mazzini. Inizialmente Acegas APS AMGA aveva ipotizzato di poter risolvere il problema entro stamani, ma i lavori di scavo proseguiti per tutta la notte hanno evidenziato un danno di entità superiore alle attese. La polizia locale ha dunque prorogato la chiusura al traffico di via Mazzini per consentire i lavori nel tratto compreso fra via Imbriani e via San Spiridione con deviazione delle linee di trasporto urbano interessate. Le utenze interessate dall'interruzione del servizio si trovano nell'area di Piazza della Repubblica, via Mazzini, via Santa Caterina, via Bellini fino all'incrocio con via Filzi e Piazza Sant'Antonio, ma non sarebbero ormai molto numerose. Per necessità urgenti, Acegas APS AMGA ricorda che è possibile rifornirsi d'acqua alla fontanella di Piazza Sant'Antonio. L'azienda garantisce impegno massimo per il ripristino e la comunicazione di ulteriori aggiornamenti attraverso Twitter e sui social del comune. Questo pomeriggio a Udine la prima seduta del nuovo consiglio, ma le barriere architettoniche del municipio impongono il trasferimento. Una rampa per entrare in municipio, poi l'ascensore, l'arrivo in Salone del Popolo e fin qui tutto ok. Ma per chi ha una disabilità, salire fino alla sala del Consiglio Comunale è tutta un'altra storia. Ivano Marchiol, assessore alla mobilità Verde Lavori Pubblici. Ad oggi una persona con difficoltà motorie, l'unico modo che ha per accedere al Consiglio Comunale è attraverso l'utilizzo di questo cingolato. Deve essere accompagnato da qualcuno per fare ben 4 rampe di scale e arrivare in un luogo in cui non c'è nemmeno un bagno accessibile. E così, dopo l'esperienza del Covid, Sala Iace si attrezza per tornare a ospitare il primo Consiglio Comunale dell'era De Toni. Bene vincolato e centenario, ogni lavoro su Palazzo Daronco dovrebbe passare dall'autorizzazione della soprintendenza. Ipotizzata ma scartata l'ipotesi di trasferire le sedute nell'ex sede della provincia, la soluzione di lungo respiro sarà far sbarcare il Consiglio Comunale nel Salone del Popolo, restituendolo alla sua funzione originaria. Vogliamo che sia veramente accessibile a tutti i cittadini e questo è quello che intendiamo fare in tutta la città, in ogni luogo, partendo dal giorno 1 del Consiglio Comunale. Nel pomeriggio alle 17, dunque, la prima seduta del Consiglio. Favorita per l'elezione a Presidente dell'Assemblea è Rita Nassimbeni, Franza. Sarà poi la volta dell'elezione dei responsabili delle commissioni e dei gruppi consiliari. Gli assessori Pirone e Arcella hanno annunciato l'intenzione di dimettersi per consentire l'ingresso in aula di altri 2 eletti. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Su segnalazione di Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, è stata depositata alla Camera dei Deputati una interrogazione dell'onorevole Nicola Frattoianni rivolta al Ministro della Salute e relativa alla mancata segnalazione di un infortunio da parte del medico a gettone del pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone. Il caso è stato denunciato dal Comitato Salute Pubblica Bene Comune della città con l'interrogazione Commissione si chiede al Ministro quali iniziative si intenda adottare affinché le regioni assumano i medici necessari a colmare gli organici, limitando le esternalizzazioni, mentre l'Italia si avvia ad essere il paese europeo che spende meno per la sanità e i cittadini, come nel caso del lavoratore di Pordenone, rischiano di veder compromessi i propri diritti e persino il reintegro nel posto di lavoro al termine dell'infortunio. È stato posticipato ed è iniziato da pochi minuti a Trieste l'incontro tra sindacati e regione in vista del prossimo tavolo ministeriale sulla vertenza Varsila, che si terrà il 18 maggio nel Dicastero del Made in Italy. Pochi giorni fa i sindacati avevano incontrato i parlamentari eletti in regione sollecitando un ruolo da protagonista del governo nella ricerca di una soluzione alla crisi industriale e occupazionale dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra. E adesso andiamo all'Università di Trieste a misurare la glicemia, mettere un catetere, vedere il paziente reagire al dolore, al farmaco. E l'umanoide è dotato di intelligenza artificiale e arti robotizzati più avanzato d'Europa, quello presentato nel nuovo centro di simulazione dell'ospedale di Trieste. Non possiamo più permetterci di investire per poi vedere il personale formato andarsene nel privato o all'estero, ha detto l'assessore alla salute Riccardi. Dobbiamo trovare il modo per trattenere questi professionisti offrendo più soldi ma anche condizioni di vita migliori. Un uomo svenuto in chiesa, la figlia chiama i soccorsi, è arrivato in ospedale in ambulanza, viene trattato e si capisce che è un paziente diabetico con infezione alle vie urinarie e ipoglicemia. Il paziente suda, muove gli occhi, parla, da solo sposta il braccio, è un umanoide di ultimissima generazione, quello che l'Università di Trieste mette a disposizione di futuri medici e infermieri, si chiama HAL S5301 e tutto succede nel nuovo centro di simulazione medica e addestramento avanzato dell'ospedale di Catinara a Trieste. Dall'altra parte di questa sorta di pronto soccorso ideale ci sono due stanze, c'è una regia che dà voce ai comandi al robot e una sala plenaria di studenti che assistono alla scena. Si tratta della prima installazione così sofisticata in Europa. Siamo con Stella Bernardi, professoressa associata di endocrinologia. Le chiedo, da che cos'è che vedete che effettivamente stiamo parlando di un robot così tanto sofisticato? Qual è la differenza rispetto agli altri? Cosa dà in più? Beh, sicuramente realismo, perché quante più manovre si possono fare, quanti più parametri si possono rilevare, ecco, tanto più realistico il manichino e ci permette di simulare meglio una scena e tutto quello che il medico e gli infermieri devono fare. Io ho visto per esempio che siete riusciti a rilevare la glicemia, addirittura a svuotare la vescica. Esattamente, queste sono alcune delle nuove caratteristiche che ha questo manichino che appunto permettono la rilevazione della glicemia con il glucometro, il posizionamento del catetere, ma ad esempio se pensiamo a questa scena, il manichino adesso in corso di ipoglicemia suda, muove la testa e la muove verso il medico che gli sta parlando o gli infermieri che diciamo gli stanno facendo il prelievo. Ecco, tutto questo aiuta a diciamo aumentare il coinvolgimento del personale sanitario che si mette alla prova con questi manichini. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Cambiano dopo 4 anni i vertici del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia. L'attuale dirigente Manuela De Giorgi assumerà dal 15 maggio lo stesso incarico per Piemonte e Valle d'Aosta, mentre il vice dirigente Nicolò Toresini andrà a Brescia. A subentrare a De Giorgi sarà Maria Cristina Fagone Buscimese, proveniente dalla questura di Forlì Cesena. Importanti gli obiettivi raggiunti in 4 anni, sia dal punto di vista della repressione che della prevenzione, con l'impegno costante a fianco della cittadinanza e soprattutto dei giovani e delle scuole, con operazioni come Dream Earnings contro il falso trading online, Free Angels contro le pratiche di anoressia e bulimia, le operazioni web oscuro, Luna, Pepito, che hanno consentito di smantellare reti di pedofili. Collaborazioni strategiche anche sulla sicurezza digitale con il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche di Roma. La Polizia Postale festeggerà i suoi 25 anni l'11 maggio. Le voci degli studenti per farsi guidare alla scoperta di storie spesso dimenticate, quelle della Pordenone nel periodo dell'occupazione nazista e della Seconda Guerra Mondiale. riscoprire i luoghi della memoria della città con un'audioguida speciale realizzata dai ragazzi. È la nuova iniziativa dell'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati di Pordenone, con l'Associazione 4704 di Gorizia e il Liceo Leopardi Maiorana. Patrizia Del Col, presidente dell'ANED di Pordenone. È una nuova modalità di poter seguire quel percorso dei luoghi della memoria che come ANED abbiamo già costruito e proposto alle scuole in questi anni. Questo pensiamo che possa essere un modo più coinvolgente di scoprire la città nel periodo dell'occupazione nazista e della Seconda Guerra Mondiale. Il risultato è un percorso di circa 2 ore che attraversa la città e racconta una ventina di storie. Riccardo Tabilio dell'Associazione 4704. Si inizia leggendo le fonti. A queste storie con cui che abbiamo letto con gli studenti, poi intorno a queste storie abbiamo cucito una narrazione. Il 100% delle voci sono voci di studenti che raccontano un pezzo della storia di questa città. Giovanni è uno degli studenti che ha partecipato all'iniziativa. Io, vivendo in questa città, non conoscevo molte di queste, luoghi che hanno fatto parte integrante della storia di Pordenone nella Seconda Guerra Mondiale, e pensare anche solo quante volte sono passato in quella strada senza conoscere l'esistenza di questo muro e la sua storia fa veramente pensare a quanto poco conosciamo e di quanto possiamo in realtà scoprire anche di città piccole come la nostra. Prossimo appuntamento sabato 20 con una visita aperta a tutta la città. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E vediamo il tempo, cielo in prevalenza coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. Trieste 19,5 gradi, Udine 19 gradi, Pordenone 18,5 gradi, Gorizia 18 gradi. Dolmezzo 15 gradi, Tarvisio 13 gradi, Forni di Sopra 11,5 gradi, Piancavallo 10, Sappada 9,5 gradi, sul Monte Zoncolan 7 gradi, sul Monte Lussari 6, sulla costa Lignano e Grado 17,5 gradi. Le previsioni dell'ARPA, questo pomeriggio sulla fascia montana cielo in prevalenza coperto con piogge da moderate ad abbondanti, possibili rovesci e qualche temporale. Su pianura e costa cielo variabile o nuvoloso con schiarite, ma anche con la possibilità di qualche breve fase di pioggia, in genere debole. Sulla costa e zone orientali soffierà bora moderata. Domani cielo variabile con maggiore nuvolosità sulle zone occidentali e maggiori schiarite ad est. In montagna sarà possibile qualche pioggia sparsa, in genere debole o qualche rovescio. Sulla costa al mattino soffierà bora moderata che tenderà a girare in brezza nel pomeriggio, specie tra Lignano e Grado. Per la rassegna Terra E questa sera la proiezione del docufilm Incanto d'erba e d'urgenza di e con Roberto Pizzutti alle 20.45 nella Sala Grande di Cinema Zero a Pordenone, un documentario per la tutela dei prati stabili interamente girato nelle aree naturali piccole e grandi del Friuli Venezia Giulia. Pizzutti ci ha spiegato che cosa sono i prati stabili e perché sono a rischio. I prati stabili sono delle formazioni erbacee che non vengono mai arate e quindi conservano questa vegetazione da sempre. I pericoli purtroppo sono tanti perché la tendenza è trasformarli in narrativi oppure concimarli abbondantemente, ma ci sono anche cause banali che causano tante volte la distruzione. Quindi è fondamentale una conoscenza da parte dei cittadini e delle istituzioni. Cosa possono fare i cittadini e le istituzioni per tutelare i prati stabili? La prima cosa è informarsi, c'è un catalogo su internet oppure presso i comuni che indica dove sono i prati stabili, quindi uno può andare a fare le passeggiate e così vedere il suo territorio e cercare di adottarli questi prati, anche se non sono in propria disponibilità, almeno cercare di parlare con un agricoltore, fargli capire che ci sono delle norme di tutela e anche una quantità non differente di contributi per la gestione. Quindi questo, se si diffondesse come era già indispensabile quasi 20 anni fa quando abbiamo fatto la legge, adesso avremo molta più tranquillità e non tante preoccupazioni. Quanti sono e dove sono i prati stabili in regione? Dipende dalla tipologia, cioè solo l'1% sono prati che si chiamano magredi evoluti per la presenza di di certe specie, e quindi 1% è proprio una quantità irrisoria. Quelli umidi sono ancora più rari, meno dello 0,6% della superficie. Sono localizzati prevalentemente lungo i corsi d'acqua oppure sulle colline moreniche per quanto riguarda la pianura, però ce ne sono anche sparsi in aree distanti dai corsi d'acqua, e questi sono i prati più belli. Ne troviamo nella zona di Pasian di Prato, Campofornido, anche nella zona di Ragogna, San Daniele, Rive d'Arcano, Fagagna. Se andiamo nella bassa friulana è praticamente tutto dissodato e poco rimane nella alta pianura. Premio Dolomiti Patrimonio Mondiale per il film Custodi del regista Marco Rossitti, unico autore friulano, presente alla 71esima edizione del Trento Film Festival. Il riconoscimento, istituito dalla Fondazione Dolomiti UNESCO e dalla Società degli Alpinisti Trentini, premia il miglior film che documenti la consapevolezza delle comunità rispetto agli eccezionali valori universali riconosciuti da UNESCO e la capacità di una conservazione attiva del territorio. Nel suo lavoro Rossitti ha scandagliato il Friuli Venezia Giulia alla ricerca di storie di sconosciuti ma fondamentali custodi dei loro territori. Il Teatro di Monfalcone celebra i 40 anni di attività con un ciclo di concerti gratuiti dedicati alle 9 sinfonie di Beethoven. Questa sera è il primo alle 20:45. Abbiamo intervistato il direttore artistico del teatro, il maestro Federico Pupo. 40 anni fa, il 24 maggio del 1983, veniva inaugurato il Teatro Comunale di Monfalcone con il concerto delle Voci Bianche del Tölzer Knabenchor. Un concerto che fu acclamato dal pubblico, la cui passione e fedeltà al Teatro Comunale ha saputo coltivare in tutti questi 40 anni con proposte di musica e prosa di levatura internazionali. 40 anni che si celebrano con un ciclo di concerti delle 9 sinfonie di Beethoven. Le 9 sinfonie sono un capolavoro conosciuto da tutti, e immaginando questo rapporto con le nuove generazioni abbiamo accolto questo progetto dell'amico Davide Cabassi, un ottimo pianista insieme ad Antonio Tarallo, che ha messo insieme docenti dei conservatori italiani insieme agli studenti dei conservatori italiani. Ecco questo passaggio generazionale per eseguire questa versione a 2 pianoforti ottomani delle 9 sinfonie. Monfalcone, grazie proprio ai cartelloni musicali, oltre a essere famosa come città dei cantieri, è diventato uno dei punti di riferimento per gli amanti della musica della regione e oltre. Grazie al maestro De Incontrera e appunto anche all'assenza in regione di altri luoghi della musica, Monfalcone si è subito imposto a livello anche nazionale. Tanto è vero che già dal 1985 ebbe il riconoscimento del Ministero. Con questo anniversario l'amministrazione comunale vuole anche guardare avanti e quindi ha invitato i teatri dell'Isontino in relazione anche al 2025, quella che sarà la grande festa della città della cultura, e quindi dedicare ogni serata a uno dei teatri, Cormons, Gorizia, Nova Gorica, Gradisca, proprio per creare questo e rafforzare questo sentimento di relazione di comunità nel territorio. Nada Choc, TGR Friuli Venezia Giulia. C'è il basket in apertura dello sport in casa della Pallacanestro Trieste. Ieri si è consumato il dramma: dopo 5 anni è arrivata la retrocessione dal massimo campionato. Le lacrime dei tifosi al Pala Trieste. Finisce nel dramma sportivo la stagione della pallacanestro con una retrocessione in A2 dopo 5 stagioni. Verdetto deciso sugli altri campi, perché a Brindisi, dove serviva vincere per essere sicuri della permanenza in A1, Trieste di fatto non si presenta e va sotto fin dalle prime battute, mentre nel capoluogo si soffre davanti al maxischermo. Troppe le energie spese nello scontro salvezza della scorsa settimana contro Verona, troppe le assenze. La squadra Ilegovic da subito fa capire ai propri tifosi che non è il caso di guardare la partita. Meglio soffrire, attaccati agli smartphone, perché con i biancorossi sotto tra le 20 e le 30 lunghezze contro una Brindisi che fa il suo dovere e vince 92-70 senza impegnarsi nemmeno troppo, si spera in qualche buona notizia. Ma negli altri campi, specie su uno, accade l'impensabile. Serviva una sconfitta di una tra Reggio Emilia, che passeggia contro una Trento demotivata, di Napoli, che alla fine spugna la retrocessa Verona, e di Scafati, che giocando in ritardo, grazie ad un astuto stratagemma, rimonta a 17 punti di svantaggio negli ultimi 10 minuti contro Brescia, con il quarantenne Logan leader che sigla 30 punti importanti, mentre a Brindisi il triestino Bartley litiga con il canestro per fregiarsi dell'inutile titolo di capocannoniere. Così non rimane che recriminare su qualche canestro sbagliato negli scontri diretti, come dicono coach Legovic e il general manager Ghiacci a fine partita. La proprietà americana ha promesso un rilancio, oggi però rimane solo la tristezza per un fallimento gestionale annunciato, con scelte incomprensibili in sede di mercato, quando le cose andavano bene la squadra con i correttivi giusti era un passo dai play-off prima di inanellare una serie di 10 sconfitte nel girone di ritorno. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Tutt'altra musica in Friuli, dove Udine e Cividale, dopo due partite vinte in rimonta, si preparano già alla sfida derby per i quarti dei play-off di A2 e la scalata alla A. Alla fine sarà derby, una festa incredibile per la pallacanestro friulana, ma anche almeno una settimana di tensioni tra due società che non si amano, per usare un eufemismo. In casa le prime due partite le giocherà l'APU, vista la concomitanza con gli alpini. Gara 1 sarà alle 20 di lunedì 15 maggio, gara 2 mercoledì sempre al Carnera, gara 3 a Cividale, presumibilmente sabato 13. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento dell'anno con il vento in poppa. I bianconeri hanno espugnato Torino in rimonta 96-93 con una rimonta culminata negli ultimi due minuti di gara, partita in equilibrio. I padroni di casa di Ciani, che non si disperano affatto per la sconfitta evitando proprio Udine al primo turno playoff, scappano avanti di 10 in avvio dell'ultimo periodo, salvo fermarsi sul più bello. A quel punto salgono in cattedra i big friulani, gentile sigla almeno uno, quindi è Brisco a prendersi la responsabilità dei tiri che fanno guadagnare l'ambito fattore campo nel derby. Migliori marcatori Gaspardo e la guardia USA con 24 punti. Udine, per la fase conclusiva che porta le due promozioni, parte nelle retrovie, ma con una squadra forte da completare con un americano, tra i nomi anche quelli del triestino Terry. Vittoria in rimonta anche per la Gesteco. Dopo un grandissimo primo quarto, i gialloblu si perdono a Piacenza, che va sopra approfittando delle basse percentuali della squadra dei Pilastrini nelle fasi centrali del match, recuperando uno svantaggio in doppia cifra. Nonostante l'assenza del bomber McGusty a riposo, i padroni di casa reggono fino a quasi alla fine del quarto conclusivo, più 8 con meno di 3 minuti da giocare. Le bombe di Dell'Agnello e del solito Redivo, 2 in un amen, pareggiano i conti a quota 75 e portano la sfida al supplementare, dove Piacenza non segna più e regala al GM Mikalic la settimana più intensa di sempre, con tanto di finali under 19 in Campania in mezzo. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Il calcio ora. Oggi i tifosi della Curva Nord non saranno allo stadio Friuli Dacia Arena per la partita contro la Sampdoria. Lo ha annunciato una nota diffusa ieri dalla stessa Curva Nord. La decisione è stata presa in segno di protesta dopo i fatti accaduti in Udinese e Napoli. In seguito agli scontri allo stadio Friuli Dacia Arena sono state arrestate, ricordiamo, 5 persone, di cui 2 udinesi, un goriziano, una persona di Pordenone e una di Napoli. Corso a Udine questa mattina le udienze per la convalida degli arresti. Con la Sampdoria è un grosso errore pensare che sarà tutto semplice, ha detto l'allenatore bianconero Andrea Sottila alla vigilia del match contro i Liguri, che si giocherà alle 18:30 allo stadio Friuli Dacia Arena. Ascoltiamolo. Pretendo io personalmente una partita da udinese come quella vista col Napoli. Io parlo sotto il profilo dell'approccio, della determinazione, della concentrazione, dell'intensità, della cattiveria agonistica. Perché? Perché secondo me siamo stati non tanto continui sotto questo punto di vista, ma continui di mentalità. Perché poi questa squadra ha dimostrato che contro tutte le grandi non ha mai sbagliato la partita. Abbiamo di fronte a noi 5 partite, vuol dire 15 punti, e il nostro obiettivo è in queste 5 partite essere continui di performance, continui di concentrazione e di ritmo. E ora alcuni appuntamenti per il cartellone dei lunedì dello Schmidl alle 17:30, settimo appuntamento con la stagione di Fuoriscena, il ciclo di guide all'ascolto delle opere in scena appunto al Teatro Verdi di Trieste, dedicato oggi a Turandot di Giacomo Puccini. Con inizio alle 20 si terrà al Kulturnidom di Gorizia in via Bras 20 il quinto spettacolo teatrale nell'ambito della stagione 2022-2023 a Gorizia del Teatro Stabile Sloveno di Trieste, e cioè lo spettacolo in sloveno di Thomas Mann Mario Incarodei, Mario il Mago, prodotto dalla compagnia SSG di Trieste per la regia di Ivana Gilas. Il più grande scheletro di triceratopo mai scoperto, raccontato nel documentario Big John, diretto da Dorino Minigutti e Davide Ludovisi, sarà presentato in anteprima assoluta questa sera alle 20:30 al cinema Ariston di Trieste. Il film è stato prodotto da Gerose in coproduzione con Agent Double del Belgio. Il supporto per il fondo per l'audiovisivo del Friuli Venezia Giulia Giulia, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Ministero della Cultura, il Fondo Canadese The Art of Documentary Development Fund. Il film racconta il lungo e duro lavoro per estrarre dalla roccia ed assemblare il triceratopo da record, ma anche e soprattutto il dietro le quinte di un mondo che incrocia paleontologia, arte e mercati finanziari. Alle 17 nella sede della Comunità Greco-Orientale di Trieste, conferenza di Giulia Bernardi su sonagli, perle orecchini, i gioielli nei ritratti del Museo Pisani, tra storia e tradizione. Si conclude così il ciclo di incontri promossi dal Touring Club Italia del territorio di Trieste per far conoscere e valorizzare le opere esposte nel Museo Costantino e Mafalda Pisani della comunità, tenuto aperto dai soci e volontari del TCI. A Pordenone, a Cinema Zero in Mediateca, giornata conclusiva del progetto AB Cinema, navigazione nei codici del linguaggio filmico tra sala, schermo e rete, a cura di Agi Sanek, sezione interregionale delle Tre Venezie. Nel pomeriggio dalle 15 un convegno sulla didattica degli audiovisivi, la produzione e la promozione cinematografica. In Biblioteca Civica a Cividale alle 18 presentazione del libro Il congedo originale, scritto da Sonia Malaspina, direttrice risorse umane Italia e Grecia in Danone, e Maria Laura Agosta, manager per l'inclusione della stessa azienda, per riflettere sugli aspetti legati al tema della genitorialità e del lavoro di cura verso gli altri. E alle 18 alla libreria Ubic di Trieste il critico Enzo Santese presenterà Incroci algerini, romanzo della scrittrice Maria Cristina Faccanoni. Prima di chiudere vi informiamo che questo pomeriggio il giornale radio regionale delle 18.30 andrà in onda alle 18.05 prima della cronaca del posticipo Udinese-Sampdoria. È tutto per questa edizione del giornale radio in regia. Roberto Cavallari e Mauro Cumini, in redazione Valentina Veneruso, dalla Razzani e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.